Lei girava per i mercatini, io invece giravo intorno a lei. Ma con passaggi repentini, pensai sarei una dei miei trofei. Mi avvicinai, le dissi vieni con me dai, in giro per Savignano, in ape dal kebabaro. Guardami un po' in giro per essere siti, visitiamo i luoghi che sono tutti lì. Dai vieni anche tu, c'è molto di più. Baby, sei da favola, vuoi fare la mia Gretel? Sarò così dolce da farti venire il diabete. Sacra come l'ospite, se hai solo gli occhi fuori dalle orbite, ti puntano come comete. Sei straniera? Non è un problema, voglio conoscere la tua lingua, ma non intendo l'inglese. Quello lo so già, voulez-vous coucher avec moi? Come vedi, so persino il francese. Ti mangio con gli occhi, non andartene, nessuno è mai morto, è già andata da un paio di palpebre. Se il mio obiettivo, tipo le telecamere, lascia stare che i buffoni sono solo maschere. Lei accetta e viene con me, mentre cammino la prende in giro tipo un dissing rap. Ma se la prende, mi dice fatti fuori. Io rispondo, spero da te se portami un po' in giro per essere siti. Visitiamo i luoghi che sono tutti lì. Dai vieni anche tu, c'è molto di più. Se stai insieme agli essere poi. Portami un po' in giro per essere siti. Visitiamo i luoghi che sono tutti lì. Dai vieni anche tu, c'è molto di più. Giro al borgo vecchio, la tipa sembra uno specchio. Riflette emozioni sul viso, parole che intriso sussurro all'orecchio. Piazza desolata, lei vestita come una fata. La porto al forno armuzzi per fare merenda con una spianata. Tu mi chiedi dove andiamo, io ti porto un po' fuori mano. Io e te da soli fuggiamo, poi vediamo se concludiamo. Amo il tuo sorriso, mentre sono sorpreso che tutto quello che è attorno si blocca e del mondo ne sento il suo peso. Oh, adagiati su nel balcone tra varie feste, scorze di limone, osserviamo per ore e ore il lento scorrere del Rubicone. Rubicone. Mentre sono con te il tempo si ferma, io corro alla svelta, sento nella mia testa rumori e suoni come ad una festa fresca. La tua pelle è chiara, dolce e delicata, intendo perché i genitori è così che ti hanno chiamata. Ti riporto indietro adesso, dammi solo un altro pretesto e sotto casa arrivo presto, di te ormai son lesso. You.